Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a tutti quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di Stati Uniti, parliamo soprattutto di Obama e lo facciamo sulla base di un libro che si intitola Obama dibezzato. Gli autori sono Maria Teresa Cometto. Buonasera Cometto. Buonasera a voi. E Glauco Maggi. Buonasera Maggi. Buonasera. Ecco, Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi sono due giornalisti che vivono e lavorano a New York, possiamo dire anche che vivono e lavorano insieme, essendo marito e moglie. Maria Teresa Cometto è giornalista per il Corriere della Sera, per Grazia, e Glauco Maggi per La Stampa e Libero. E hanno seguito quindi da vicino questi ultimi anni dell'America e in particolare questa presidenza Obama, che sta arrivando a metà del suo mandato, almeno così potrebbe essere. Obama dimezzato, quindi, l'America verso il 2012. Spieghiamo subito il titolo, Maria Teresa Cometto. Ha diverse sfaccettature, la prima è quella che tu hai già citato, cioè è a metà del mandato, dopo i primi due anni, e il libro esce proprio di fatto all'inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali del 2012. Le squadre stanno già formandosi, da una parte ci sarà ovviamente Obama per i democratici, mentre c'è un grosso punto di domanda fra i repubblicani: chi sfiderà Obama? Dimezzato perché il tasso di gradimento fra gli elettori è sceso circa al 50%, quindi oltre 20 punti più in basso rispetto all'inizio della sua presidenza, e dimezzato perché dopo le elezioni che hanno rinnovato gran parte del Parlamento lo scorso novembre, ha perso la maggioranza del Parlamento, ha perso la Camera e ha perso anche la supermaggioranza al Senato. Quindi c'è qualche difficoltà in questa presidenza. Del libro, tra le prime pagine, c'è la pagella di Obama a metà mandato. Allora, Glauco Maggi, in sintesi, com'è questa pagella? Ma è una pagella, diciamo che anche del paradossale, nel senso che ci sono promesse mantenute. La riforma sanitaria su cui si è impegnato fortemente Obama è stata indubbiamente la sua più grande vittoria. La riforma finanziaria che ha varato poi nel luglio 2010 un'altra legge che voleva e che ha imposto. Altre cose positive sono poi venute di minor peso, di minor rilievo, come l'ammissione nell'esercito di chi si dichiara gay, oppure il via dall'Iraq, che in realtà ci sono ancora 50.000 soldati, ma poi soprattutto quello era, diciamo, il rispetto del piano già predisposto da Bush con il governo di Baghdad. Ma appunto la riforma sanitaria e quella finanziaria, le due grandi vittorie, sono anche state quelle che si sono rivelate il boomerang elettorale, perché i 63 deputati persi sono tutti in collegi nei quali i repubblicani hanno fatto la campagna per la cancellazione della legge di riforma, e infatti questa è già avviata adesso con il nuovo congresso. Ecco, Obama si è trovato in un momento particolarmente complesso: la crisi economica da una parte, l'impegno in Iraq e in Afghanistan dall'altra, quindi si è trovato a gestire delle situazioni difficili. Quanto hanno pesato queste situazioni difficili proprio nella politica effettiva di Obama, nel rispettare anche le sue promesse elettorali, Maria Teresa Cometto? Indubbiamente Obama ha ereditato innanzitutto una grave crisi finanziaria e quindi il suo primo anno lo ha speso a combattere lo spauracchio addirittura della Grande Depressione di ritorno in America. Il problema che noi presentiamo nel libro è che la ricetta da lui seguita, cioè il super stimolo da quasi 800 miliardi di dollari, non è una ricetta su cui tutti quanti erano d'accordo. Alcuni Nobel si sono dichiarati a favore, altri contro, e soprattutto non ha portato i risultati sperati. Obama e i suoi economisti avevano detto che con il super stimolo la disoccupazione non sarebbe salita all'8%, invece è salita ben oltre il 10% e adesso è ancora al 9%. Una ammissione di parziale fallimento del suo modo di affrontare la crisi economica e finanziaria è il fatto che Obama ha completamente cambiato la squadra dei suoi consulenti economici e finanziari, ha chiamato a fare il capo del suo staff alla Casa Bianca, la carica di fatto più alta, il suo braccio destro, ha chiamato un manager di una delle maggiori banche americane, della Dudley, ex manager della JP Morgan Chase, per esempio, e ha chiamato a capo del suo consiglio per lo sviluppo e per l'occupazione Jeffrey Immelt, il CEO di General Electric. Insomma, una svolta notevole rispetto a il modo di approcciare il mondo del business dei primi due anni, in cui i banchieri erano un po' il male, con la M maiuscola, Wall Street causa di tutti i mali del paese, e lo stesso le corporation che spostano soltanto i lavori all'estero e aumentano la disoccupazione. Ecco, questo cambiamento di tono e di pratica di Obama fa vedere che lui stesso si è reso conto che la sua ricetta non ha funzionato. Ecco, infatti c'è stato anche un cambiamento nella politica economica, mi sembra, Glauco Maggi, una politica economica che prima era espansiva e poi nelle ultime settimane sono stati annunciati dei piani di forte contenimento della spesa, di contenimento del deficit pubblico. Questo potrà pagare in termini elettorali, Glauco Maggi? Ma questo sarà proprio il terreno veramente dello scontro più duro tra i repubblicani, che si sentono ormai depositari del maggior rigore fiscale. Su quello hanno vinto sostanzialmente le elezioni, di quello si nutre la grande crescita del Tea Party, che è la componente, diciamo, più dinamica e più mobilitata e mobilitante dei conservatori, diciamo, della destra americana, e quindi non sono, almeno per quello che si è visto nei giorni scorsi, non sono disponibili a cedere di un grammo nella loro richiesta di veri tagli. Obama, d'altra parte, capisce che presentarsi come un falco fiscale oggi è sostanzialmente indispensabile, anche dopo che, per esempio, Bernanke in un discorso di qualche giorno fa aveva detto che bisogna mettere mano al deficit, se no sono dolori. Ecco, però lo fa un po' alla Obama, e il discorso dello Stato dell'Unione e anche poi il discorso in cui ha lanciato chiamiamola finanziaria americana, è un discorso che contiene le solite ambiguità. Lui l'ha chiamata tassa e investi, e i repubblicani lo chiamano tassa e spendi, ma in realtà mentre lui promette lacrime e sangue, dice anche che non vuole rinunciare a, per esempio, tagliare i benefici fiscali fra due anni, quando scadranno ancora dopo la proroga. Vuole continuare ad avere un portafoglio di investimenti verdi di cui nessuno ancora sa bene che cosa potrà la portata o il significato in termini di effettiva crescita sia del PIL sia soprattutto dei posti di lavoro. Insomma, capisce Obama che deve essere più moderato e più centrista, e che i conti vanno riaggiustati. D'altra parte, secondo noi non rinuncia in maniera netta all'approccio, come fece invece Clinton, che nella stessa situazione nel 1994, quando perse entrambi i rami del Parlamento dopo due anni del suo primo mandato. Ecco, Clinton fu sincero nell'abbracciare, per esempio, la riforma del welfare che volevano i repubblicani, e arrivò a dire l'era del grande governo è finita in un discorso dello Stato dell'Unione. Ecco, questo si dice, e diciamo anche noi, che Clinton è un bel esempio di come una batosta elettorale a midterm non voglia dire di per sé il non vincere dopo. D'altra parte, però, bisognerà, se vogliamo ripetere la storia, bisogna anche ripetere come i protagonisti hanno vissuto la storia. Ecco, allora guardiamo un attimo in avanti, spingiamoci a fare qualche pronostico. Maria Teresa Cometto, chi potrà essere il candidato repubblicano capace di sconfiggere Obama? Questo non lo sanno neanche loro, neanche i repubblicani, che hanno appena chiuso un importantissimo convegno dei conservatori a Washington, tre giorni in cui i potenziali candidati si sono schierati, si sono fatti conoscere dal pubblico, dai loro fan, che stavano celebrando fra l'altro l'anniversario della nascita di Reagan, quindi erano molto eccitati per così una rimonta conservativa nel paese, ma anche dagli osservatori conservatori, per esempio dal New York Post, dal Wall Street Journal, le critiche sono state abbastanza pesanti sul fatto che nessuno dei candidati attuali potenziali alla Casa Bianca fra i repubblicani possa avere veramente le carte per sfidare Obama. Il più quotato al momento è Romney, l'ex governatore del Massachusetts, è anche uno dei candidati che aveva perso di fronte a McCain nelle elezioni precedenti. Ci sono alcuni altri governatori come Polenti e alcuni giovani del Partito Repubblicano, ma nessuno ha lo spessore, la popolarità e il glamour, diciamo anche il richiamo che possa far pensare a un candidato credibile contro Obama. Però allora, c'è ancora molto tempo da qui all'inizio vero e proprio della corsa per le nomination, che inizierà nel febbraio dell'anno prossimo, e quindi staremo a vedere. Allora, Glauco Maggi, solo in una battuta, quante probabilità ha Obama di essere riconfermato? Ah, direi 55. 55, un po' più della maggioranza. Grazie a Glauco Maggi, grazie a Maria Teresa Cometto. Abbiamo parlato del loro libro Obama dimezzato, l'America verso il 2012, edito da Boroli. Sono 174 pagine, 16 euro, tutto quello che volete sapere sull'America in modo da capire dove sta andando l'America. Obama dimezzato, l'America verso il 2012. Grazie e alla prossima puntata.